Storie italiane. Le tre filatrici. C'era una volta una tessitrice che viveva in un piccolo villaggio con sua figlia Nora. La donna filava tutto il giorno e Nora non l'aiutava mai. Nora odiava il suono della ruota, ma adorava dipingere. Sua madre pensava che dipingere fosse una perdita di tempo. Nora? Nora? Cara, cosa stai facendo? Aiutami a filare il filato. Solo un minuto, mamma. Il mio dipinto è quasi finito. Quante volte ti ho detto che la pittura è una perdita di tempo? Non provi pietà per me? Lavoro tutto il giorno per guadagnare un po' di soldi e tutto ciò che fai è perdere tempo in questo modo. Ma mamma, sto dipingendo per il proprietario. Ha detto che mi pagherà bene per questo. Niente da fare. Forse riuscirai a vendere uno o due dipinti a qualche persona ricca, ma quante persone del genere ci sono? Invece tutti hanno bisogno di vestiti e così tanti compreranno vestiti da noi. Quindi trascorri il tuo tempo a tessere. Vieni fuori adesso. Questa era una cosa che si ripeteva quasi tutti i giorni. Nora si sedeva per dipingere e sua madre non glielo permetteva. Un giorno sua madre si arrabbiò così tanto che gettò via le vernici e i pennelli di Nora. Nora si sedette in giardino a piangere. Ed appena accadde, la regina, proprio in quel momento, passò da lì. Quando vide Nora piangere, chiese di fermare la carrozza davanti alla casa della tessitrice. Cocchiere, fermati. Ora smetti di piangere. È Sua Altezza la regina? Buongiorno, maestà. Buongiorno, mia signora. È tua figlia? Ah, sì. Buongiorno, Altezza. Buongiorno. Sei davvero bella. Grazie, Altezza. Perché stava piangendo? Qual è il problema? Cosa devo dirvi, vostra maestà? Mia figlia lavora molto duramente. Ama tessere il filato. Continua a dirle di riposare, ma lei non mi ascolta. Madre? Quando l'ho costretta a riposare, ha iniziato a piangere. Sono una povera donna, Altezza. Dove posso trovare abbastanza filo da tessere di continuo? Sono così contenta di vedere una gioventù così operosa nel mio regno. Perché non fai venire la tua adorabile figlia con me? Adoro il suono della ruota che gira e ho più che abbastanza filo nel mio palazzo. Se tesse tre stanze piene di filo, le farò sposare mio figlio maggiore. Che onore sarebbe per una povera tessitrice come me, Altezza, grazie. Mamma? Ah, non ti preoccupare per me, mia cara figlia. Non sono ancora così vecchia. Posso prendermi cura di me stessa. Vai a palazzo. Dopotutto, Sua Maestà stessa è disposta a portarti con sé. Vai. Quindi Nora dovette andare con la regina al palazzo. La regina portò Nora in tre stanze che erano piene del miglior lino che Nora avesse mai visto. La regina le disse: riposa oggi, ma dovrai tessere tutto questo lino il prima possibile. Sì, vostra Altezza. Nora fu così sconcertata nel vedere tutto quel lino che non sapeva cosa fare. Trascorse l'intera giornata semplicemente guardando il lino. Il giorno successivo la regina rimase scioccata dal vedere che non aveva fatto nulla. Non hai nemmeno iniziato a filare, Nora? Perdonami, maestà, ma mi manca così tanto la mia casa che semplicemente non riuscivo a lavorare. Mi dispiace. Oh, capisco. Non preoccuparti. Prenditi il tuo tempo. La regina se ne andò, ma Nora era davvero preoccupata. Non aveva mai davvero imparato a filare un lino così fine e odiava farlo. Voleva dire alla regina la verità di come in realtà odiasse filare, ma era preoccupata che la regina potesse punire sua madre per aver mentito. Nora era così sopraffatta dalla preoccupazione che iniziò a piangere. All'improvviso sentì dei passi. Vide tre donne che camminavano verso di lei. Chi siete? Da dove venite? Non importa chi siamo, da dove veniamo. Importa cosa siamo venute a fare. E siamo qui per aiutarti, mia cara, se ce lo permetterai. Aiutarmi? Come? Sappiamo che non ti piace filare, quindi fileremo noi tutto il filo per te. Lo fareste? Grazie mille. Come potrei ripagare la vostra gentilezza? Vogliamo solo una cosa. No, non ce lo permetterà. Siamo troppo brutte. A cosa stavamo pensando? Forza, filiamo il filo e andiamo. Ma... Che cosa? Cosa volete? Ditemelo. Se filiamo tutto il filo, prometti di invitarci al tuo matrimonio e di presentarci a tutti gli ospiti reali come le tue zie? Lei non lo farà. Guardaci, pollici così grandi e gonfi sui piedi, occhi socchiusi che non vedono quasi e orribili labbra allungate. Non ci inviterà mai, soprattutto davanti alla famiglia reale. Siamo troppo brutte, hai ragione. Ma certo che vi inviterò. E chi dice che siete brutte? Mi state aiutando in un momento di disperato bisogno. E questo è più prezioso di tutta la bellezza del mondo. Non solo vi invito, vi siederete a capo tavola, proprio accanto a me e al principe. Dici davvero? Il principe non si arrabbierà? Potrebbe anche rifiutare di sposarti se farai sedere donne brutte come noi a capo tavola. Se il principe è così cattivo da insultare i cari parenti della sua futura sposa, ebbene, allora io mi rifiuto di sposarlo. Per tutta la nostra vita ci hanno preso in giro e tutto ciò che desideravamo era solo un po' di rispetto per il nostro duro lavoro. Grazie, Nora. Ora guarda come trasformeremo il lino nel miglior filato che tu abbia mai visto. Quindi le tre tessitrici si misero al lavoro sulla ruota. Lavorarono tutta la notte e al mattino avevano finito gran parte della stanza. Quando sentirono dei passi, svanirono. La regina era venuta a vedere i progressi compiuti da Nora. Cielo! Cielo! Nora! Come hai fatto a filare così tanto lino in una sola notte? Buongiorno, maestà. Beh, non ho mai visto un lino così raffinato in vita mia. Hai lavorato tutta la notte, allora? Veramente, Vostra Altezza, il modo in cui il lino gira nella ruota è come magia. Devi essere stanca. Riposa un po'. Lo farò, Vostra Altezza, grazie. Ma solo dopo che tutto il lino sarà filato. Nora non aveva mentito alla regina, ma era riuscita a mantenere segrete le tre tessitrici. Quando la regina se ne andò, le donne tornarono e ripresero il lavoro. Indosserò il mio vestito di seta rossa per il banchetto e io indosserò il mio di seta verde. E io indosserò il mio di seta gialla. Le tessitrici erano così entusiaste di essere invitate al matrimonio di Nora con il principe. Filarono tutto il lino allegramente e alla fine della settimana tutte e tre le stanze piene di lino erano riempite con il filo più bello che la regina avesse mai visto. Non ci credo, mia cara! Questo è bellissimo! Sono così orgogliosa! Grazie, maestà! Sarò felice di avere qualcuno di così operoso e laborioso come te come sposa di mio figlio. Chiama tua madre così potremo organizzare il matrimonio. Così una carrozza fu inviata a casa della madre di Nora per portarla a palazzo. Nora raccontò a sua madre tutto delle donne tessitrici. Non stai mica pensando di invitarle davvero al matrimonio, vero? Madre, gliel'ho promesso! Non essere sciocca, Nora! Pensi che alla regina e al principe piacerà avere donne così brutte come ospiti? Madre! Buongiorno, Sua Maestà! Buongiorno, mia signora! Ho pensato che fosse tempo di fare la lista degli ospiti. C'è qualcuno in particolare che vorreste invitare al matrimonio? No! Mamma, come puoi dimenticare? Vostra Altezza, ho tre zie che desidero invitare. Certamente, mia cara. Manderò qualcuno a casa loro con gli inviti. Altezza, queste zie mi sono davvero molto vicine. Mi hanno insegnato le meraviglie della filatura. Vorrei invitarle io stessa e farle sedere accanto a me al banchetto. Sicuramente, Nora. Fai come vuoi. Quindi Nora invitò le tre tessitrici con grande disprezzo di sua madre. Il giorno del banchetto si aprì la porta della sala ed entrarono le tre tessitrici vestite di seta rossa, verde e gialla. Tutti le guardarono, ma Nora si precipitò da loro e le abbracciò. Le mie zie preferite. Grazie di essere venute. Lasciate che vi presenti alla famiglia reale. Sua Altezza la regina, Sua Maestà il re e questo è il principe Edoardo. Ciao, care zie. Abbiamo posti riservati per voi. Grazie. Per tutto il vostro talento, tutto il vostro duro lavoro e tutto il vostro aiuto, questo era il minimo che potevo fare. Nora le fece sedere al tavolo e andò dagli altri ospiti. In quel momento, il principe Edward andò a parlare con le tessitrici. Spero che vi stiate divertendo. Certo, ma vorrei poter ballare. Ahimè, quando tessi non puoi ballare. Perché? Guarda i miei piedi gonfi. Questo è ciò che succede quando si fila a lungo. Oh oh! E io non posso cantare. Oh, e perché? Guarda cosa è successo alle mie labbra a forza di leccare il filo. E io vorrei poter stare in giardino di notte e guardare le stelle, ma non posso. Perché no? Tutto lo sforzo fatto nel cercare di vedere i fili più sottili ha reso i miei occhi molto deboli. Succede quando fili. Oh no! Nora, cara, scusate! Che cosa? Ti prego di non filare mai più. Guarda cosa ha fatto la filatura alle tue povere zie. Per favore. Ma... Fai qualcos'altro che ti piace, mia cara, ma non filare. In realtà, non mi piace nemmeno filare. La mia vera passione è la pittura. Allora ti porterò le migliori vernici al mondo e dipingerai tutto ciò che vorrai. Sarebbe davvero un sogno. E un'altra cosa, per favore. Lascia che le tue zie restino al palazzo. Hanno lavorato duramente e a lungo. Ora meritano una vita di pace e riposo. Edward, sei davvero un uomo meraviglioso e gentile. E così Nora non dovette mai più toccare una ruota per filare e dipinse invece per tutto il tempo e le tre tessitrici vissero con la famiglia reale nel palazzo. Il principe Edoardo e Nora vissero felici e contenti.